L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Nei prossimi giorni verranno rivisti gli studi di settore, adeguando i parametri fiscali alla congiuntura economica. Sono molte le segnalazioni di difficoltà che arrivano dal mondo del lavoro autonomo, dai professionisti e dalle piccole imprese. Il governo sembra volerne tenere conto. Nel Sole 24 Ore di oggi parliamo di come potrebbero cambiare i coefficienti attraverso i quali circa 200 diverse categorie produttive conoscono il loro livello minimo di reddito sul quale pagare le tasse. Il sottosegretario all'economia Molgora esclude accertamenti automatici per chi non accetterà il risultato degli studi. Bisogna dire che gli studi di settore furono pensati per periodi normali, e questo non è certamente un periodo normale. Una valutazione più vicina alle reali condizioni in cui operano lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese potrebbe anche favorire, ammesso che ve ne sia la volontà, una più mirata lotta all'evasione fiscale. Buona giornata.